Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberger. Bentornati alla finestra sul cortile. Lavorare stanca, diceva Cesare Pavese. Se 8 ore vi sembran poche, cantavano le mondine curve nelle risaie di un secolo fa. Ma oggi il lavoro non è più tanto legato allo sforzo fisico, quanto alla fatica mentale, allo stress, all'adattabilità e soprattutto all'insicurezza dell'impiego. In Francia ogni giorno un lavoratore si suicida e per lo più sono lavoratori giovani, precari, a termine. E in Italia, che è la patria, ahimè, del lavoro nero, il ministro Tremonti riscopre il valore del posto fisso. Di sofferenza sul lavoro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma parleremo anche di killer seriali e di altri temi che ora ascolteremo nel sommario. Germania. Il cannibale di Rothenburg è stato condannato all'ergastolo, ma qualcuno mette in dubbio la sentenza. America. La morte della barriera corallina. Un disastro ambientale, ma anche economico. Inghilterra. L'emiro del Qatar vuole comprare l'hotel in cui fu catturata Mata Hari. Francia. Un documento denuncia il malessere dei lavoratori. Inghilterra. Ci vediamo martedì alle 15. Le riunioni di lavoro riescono meglio a quell'ora. Jack Crawford deve avere davvero molto da fare se è costretto ad assumere degli studenti come aiutanti. È occupato a dare la caccia al nuovo arrivato a Buffalo Bill. Quanto è cattivo quel ragazzo. Lo sai perché lo chiamano Buffalo Bill? È iniziato con una battutaccia sull'omicidio di Kansas City. Qualcuno ha detto: a questo piace scuoiare gobe. Perché pensi che stacchi la pelle, agente Starling? Lo eccita. Molti assassini recidivi tengono dei trofei delle loro vittime. Io non lo facevo. No, no, lei se le mangiava le sue. Abbiamo ascoltato un brano dal film Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme ed era... avete riconosciuto la voce doppiata di Anthony Hopkins che interpretava Hannibal Lecter, questo assassino seriale con l'ossessione dell'antropofagia che era il protagonista di questo film nato da un bestseller di Thomas Harris. Ma questi criminali seriali, questi cannibali seriali esistono anche nella realtà. Per esempio ce n'è uno in Germania che in questo momento sta scostando l'ergastolo per omicidio, si chiama Armin Meibs, ma tutti lo conoscono come il cannibale di Rothenburg. Ecco, sul suo caso ancora i tedeschi discutono, l'opinione pubblica è divisa, benché insomma il suo crimine sia stato orribile, ferato, ha mutilato e ucciso Bernd Brandes, un ingegnere conosciuto via internet, cucinandone gli organi genitali, mangiandoli e commentandone addirittura il sapore di fronte a una telecamera accesa, dicendo la carne umana è molto gustosa. Alcuni degli investigatori che si sono dedicati al caso sono stati scossi a tal punto da necessitare di cure psichiatriche. Questo non soltanto per l'orrore del delitto di Mais, ma perché l'assassino lo ha compiuto senza dover in alcun modo forzare la volontà della propria vittima, perché Brandes era non soltanto consapevole di quello che gli sarebbe accaduto, era addirittura desideroso di trasformarsi nel pasto del cannibale e di morire cancellando dal mondo ogni sua traccia, tanto che pare abbia chiesto a Armin di fargli il favore, dopo averlo ucciso e mangiato, di polverizzare le sue ossa. Alla luce di questa lucida e consenziente follia, adesso il giurista Jörg Scheinfeld ha pubblicato il libro Der Cannibal Fall, cioè il caso cannibal, uno studio per contestare proprio la sentenza, sostenendo che in realtà non di omicidio si sarebbe trattato, ma in qualche maniera di collaborazione, insomma, per una morte volontaria. E in punto di diritto forse Scheinwald potrebbe anche avere ragione, ma quello che è certo è che in tutta questa vicenda nessuno vorrebbe vedere circolare liberamente il cannibale di Rothenburg per le vie della propria città. Ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione al professor Francesco Bruno, che ringraziamo di essere con noi alla finestra sul cortile. Grazie professore. Francesco Bruno è criminologo e insegna psicopatologia forense alla Sapienza di Roma. Ecco professor Bruno, per lei immagino questi temi, queste storie non siano niente di nuovo, però noi siamo abituati a pensarle più come opere di fiction, che queste creature così assatanate e sanguinarie esistano soltanto nei film, invece esistono anche nella realtà. Ma io credo che addirittura nessun film possa eguagliare la realtà sotto questo profilo, dove vediamo venire fuori sempre di più delle situazioni veramente incredibili. In questo caso è il caso di una persona che voleva essere mangiata, aveva questa fantasia, e che ha trovato su internet un altro che condivideva evidentemente la fantasia opposta e che dopo molta fatica si è lasciato convincere a mettere in atto questo gioco mortale, portandolo alle estreme conseguenze. Lei sta dando ragione a questo Scheinwald? Indubbiamente sotto il profilo giuridico furono tanti problemi. Un primo problema era che il cannibalismo non era un reato e quindi in un primo tempo addirittura non venne dato l'omicidio, no? Venne dato soltanto un reato di distruzione del cadavere. Quindi noi saremmo liberi di mangiare carne umana, insomma nessuno in un certo ci persegue. Perché non uccidiamo la persona, perché non so come si possa fare, però risponderemo di lesioni gravi, ma non di cannibalismo. Allora lì poi venne corretta questa cosa, ma la cosa fondamentale è che si tratta di un omicidio del consenziente, come quello che succede anche nell'eutanasia, perché nell'eutanasia si chiede di essere uccisi a qualcuno per non soffrire o per non prolungare una sofferenza impossibile. In questi altri casi invece, in questo caso terribile, c'era una fantasia perversa, una fantasia schizofrenica molto grave nella vittima, ed sì, è stata la vittima a guidare la mano dell'omicida passo per passo, momento per momento. Quindi diciamo la patologia mentale era più grave nella vittima che non nell'esecutore. Sicuramente è stata una patologia a due. No? Noi abbiamo queste forme in cui la patologia di uno si trasferisce in un certo senso anche in quella dell'altro, che è meno grave ma che poi si lascia prendere totalmente, e vivono entrambi un delirio che spesso si trasforma in un fatto sanguinario con uccisioni e così via. Ecco, beh, quindi, però insomma basta dire di no, ecco, no? Cioè il fatto stesso che poi questo si sia lasciato convincere vuol dire che proprio normale non era. Ecco, La vittima aveva già trovato molte persone che avevano detto di no, e lo stesso assassino aveva detto di no, ma poi si è lasciato convincere, ecco, ha prevalso la volontà della vittima del cannibale. Professore, ma nella casistica questi criminali danno dei segni prima di compiere questo genere di atti? Cioè si può prevenire in qualche modo questo tipo di esiti? Si può capire ma dal guardi, comportamento? In questi casi ci sono sempre delle patologie gravi che sono però non quelle tipiche in cui c'è una disorganizzazione della personalità e uno finisce per strada a fare il matto, diciamo, ma la personalità viene in qualche modo conservata, quindi gente che studia, che si laurea, che lavora, che sviluppa una sorta di doppia personalità, una buona e una malata, quella malata arriva alle fantasie più perverse, più drammatiche, e qualche volta, non sempre grazie a Dio, qualche volta queste fantasie vengono messe in atto, e allora abbiamo questi criminali così efferati, serial killer e così via. Bene, noi ringraziamo il professor Bruno, a presto e alla prossima. Grazie. Quanto vale la barriera corallina? Se lo domanda un articolo del New Scientist di Shanta Barley e la risposta è 172 miliardi di dollari. Come si arriva a questa cifra? Calcolando quelli che sono i proventi del turismo legato alla barriera corallina, ma anche per esempio all'effetto protettivo che hanno queste barriere per i paesi litorani, per le coste che possono essere colpite da tempeste o da tsunami, e poi anche per la protezione di alcune specie di pesci che hanno un elevato valore commerciale. Tutto questo porta a una cifra di circa 30 miliardi l'anno, per cui attenzione a distruggere quello che è un bene così prezioso dell'umanità, non soltanto in termini ambientali, ma addirittura in termini economici. Quindi la prossima volta che regalate o ricevete in regalo una collana di corallo, sappiate che vale molto più di quanto è stata pagata. E andiamo sulle pagine dell'Independent, che parla dell'emiro del Qatar, il quale sta facendo incetta di palazzi storici a Parigi e adesso ha messo gli occhi su un palazzo che un tempo era un grande albergo ai Champs-Élysées, che si chiamava Élysée Palace, e dove nel 1917, nel febbraio del 1917, fu arrestata la famosa spia Mata Hari. Pare che l'avessero trovata nuda mentre andava in giro in una suite lussuosa con dei cioccolatini dentro un elmetto tedesco. Il suo vero nome era Margareta Gertruida Zelle MacLeod, però il suo nome d'arte era Mata Hari, faceva la spogliarellista nei teatri e la danzatrice, e fu fucilata poco dopo con l'accusa di spionaggio a favore dei tedeschi. Ben presto l'Élysée Palace diventerà perciò di nuovo un hotel. In tutti questi anni era passato di mano in mano attraverso varie banche. Un consiglio ai futuri clienti, però: non fatevi avvicinare dalle sconosciute che vi chiedono una sigaretta. La finestra sul cortile. Da lunedì a mercoledì i telespettatori francesi vedranno sulla rete France 3 un documentario in 3 puntate intitolato La mise à mort du travail, la messa a morte del lavoro. È un documentario del regista Jean-Robert Vialet, che ha passato 2 anni a filmare degli ambienti lavorativi alla Défense, un grande centro direzionale parigino dove hanno sede molte imprese multinazionali. E si tratta appunto di un lavoro che ha ben poco a che fare col lavoro tradizionale, quello della fabbrica, dei romanzi di Zola. È un lavoro di colletti bianchi, un lavoro per lo più impiegatizi, un lavoro di servizi che ormai coprono il 75% dei posti di lavoro in Francia. E quindi è un lavoro che oltretutto è legato, insomma, al commercio mondiale, risponde a dei criteri manageriali improntati alla massima efficienza e rapidità e che generano appunto tutta una serie di problemi a chi ci lavora. E l'attualità del documentario è legata anche al fatto che le cronache francesi registrano ogni giorno un suicidio in media, insomma, di un lavoratore dipendente. Per lo più si tratta di lavoratori con contratti a termine o di lavoratori precari che non sopportano la loro condizione. Allora questo disagio che esiste nel mondo del lavoro francese viene analizzato attraverso questo documentario, e c'è su Les Inrecuptibles, un settimanale di tendenza giovanile francese molto popolare, c'è un'intervista per l'appunto da Jean-Robert Vialet, il quale racconta perché insomma ha deciso di fare questo documentario e come soprattutto ha scelto queste imprese in cui ha girato il suo film. E dice soprattutto ho scelto appunto il mondo dei servizi e delle imprese globalizzate, per esempio Intermarché, Carglass, che è specializzata nella riparazione di parabrezza, o Fenwick, che è leader nel settore dei carrelli elevatori, che lavorano appunto, poi vengono adottati nelle imprese di trasporto soprattutto. Dice Jean-Robert Vialet che sostanzialmente quello a cui si assiste è un aumento di disturbi muscoloscheletrici e soprattutto di malattie psicologiche, che rappresentano il 20% ormai delle malattie del lavoro. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, che salutiamo, il professor Michele Tiraboschi. Grazie di essere qui con noi. Michele Tiraboschi, giuslavorista, insegna diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, è stato a lungo collaboratore di Marco Biagi. Ecco, le situazioni, professore, di disagio sul lavoro un tempo erano legate più alla fatica fisica, alla ripetitività, all'alienazione della catena di montaggio, no? Oggi sono altre, no, le ragioni così di disagio e di sofferenza, e sono soprattutto, qui lo dice appunto questo documentario, la concorrenza internazionale sempre più incalzante, un lavoro sempre più flessibile che genera anche molto stress. Ecco, lei come vede questo fenomeno? Ovviamente, nuovi lavori, nuovi modelli organizzativi significano anche nuovi rischi. Un tempo i rischi erano prevalentemente fisici, adesso stanno emergendo una serie di patologie di difficile controllo, percezione, soprattutto quando i lavoratori transitano da un'occupazione all'altra ed è difficile seguirne l'evoluzione anche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, delle malattie professionali. Poi in particolare alcuni gruppi di lavoratori, i temporanei, gli atipici, gli interinali, gli intermittenti, hanno dei problemi specifici sulla sicurezza sul lavoro e poi anche su alcune forme che possono portare all'insicurezza e quindi poi alla depressione e poi anche a delle patologie molto gravi, fino a casi di suicidio, perché sono lavoratori che non sono stabilmente inseriti in un contesto organizzativo, quindi lo conoscono poco, fanno già fatica a conoscere l'ambiente fisico, ma soprattutto fanno fatica ad adattarsi e a allacciare relazioni solide con i colleghi, spesso lavorano in forma individuale, senza controllo o protezione sindacale, quindi è chiaro che stanno emergendo una serie di patologie nuove di cui occorre tenerne conto. Ecco, il ministro dell'economia Giulio Tremonti pochi giorni fa ha detto il posto fisso è un valore da preservare, perché aiuta i giovani e le persone in generale, insomma, a stabilizzarsi, ad acquisire una propria identità professionale e anche a farsi una famiglia. Lei pensa che abbia ragione in questo senso? Tremonti ha detto che la stabilità è un valore, che la stabilità nei rapporti sociali, quindi anche nei rapporti di lavoro, è un valore. Chiaro che il posto fisso oggettivamente non c'è più, sono cambiati i modelli organizzativi, i tempi delle imprese, la tecnologia crea dei ritmi diversi e c'è un ciclo che non corrisponde, un ciclo produttivo che non corrisponde al ciclo di una carriera. Quello che conta è dare alle persone certezza, stabilità occupazionale, quindi dare garanzia che perso un lavoro ce n'è un altro e di buona qualità, non certo il posto fisso. E poi attrezzarsi, anche il legislatore lo sta facendo a partire dal testo unico sulla sicurezza del lavoro promosso dal governo Prodi e poi perfezionato quest'anno dal ministro Sacconi, di tenere in considerazione nella valutazione dei rischi e quindi poi anche negli obblighi che ha l'imprenditore nei confronti del lavoratore, che i modelli di organizzazione stanno cambiando, che cambiano tipologie contrattuali e quindi nei documenti di valutazione dei rischi tenere in considerazione anche le specificità di questi particolari gruppi di lavoratori che hanno bisogno di un'informazione aggiuntiva e di una formazione specifica, quindi intervenire sulla prevenzione tenendo presente che il mondo del lavoro è cambiato e non si può certo tornare indietro. Ecco, molti tendono a dire che con la legge Biagi è aumentato il precariato, un luogo comune che si sente ripetere spesso. Lei come risponde? Innanzitutto il precariato è una condizione psicologica di persone che si sentono insicure, che fanno un lavoro che non piace, che non è gratificante. Questo c'entra poco con le tipologie contrattuali introdotte dalla legge Biagi. Ricordiamoci che quando prima Tiziano Treu e poi Marco Biagi lavoravano alle loro leggi, il tasso di disoccupazione era il doppio di quello che abbiamo oggi, quindi non tanto non avere un lavoro fisso, non c'era proprio il lavoro. Non c'era lavoro, certo. La disoccupazione, l'assenza di lavoro crea maggiore depressione, patologia, esclusione sociale. E soprattutto nel 97, nel 2000, quando si lavorava su queste grandi leggi sulla flessibilità, i tassi di occupazione, cioè il numero di persone in età di lavoro che erano occupate, erano al 50%, cioè voleva dire che metà delle persone in età di lavoro erano escluse. Questo crea le situazioni peggiori per le persone, perché il lavoro è uno strumento fondamentale per sviluppare la personalità, per avere cittadinanza attiva, per essere incluso. Quindi il primo problema è contrastare la disoccupazione e dare più opportunità a tutti di entrare. Bene. Poi le leggi sulla flessibilità aiutano, sono dei ponti che servono a mettere in contatto lavoratori e imprese. Bene, noi ringraziamo il professor Tiraboschi, a presto. A presto, arrivederci. Qual è il momento migliore per fissare una riunione di lavoro? Se lo domanda Megan Lane su BBC News, citando i dati di una indagine che è stata fatta per l'appunto in Inghilterra, attraverso una serie di questionari distribuiti a manager e impiegati di varie imprese. Hanno ricevuto ben 100.000 risposte ed è risultato che il momento migliore sono le 3 del pomeriggio del martedì. Certo, quando uno pensa di fissare una riunione al lunedì mattina alle 9, sicuro che non troverà molti partecipanti, perché è il momento in cui tutti quanti riprendono l'attività settimanale, alcuni sono appena tornati dal weekend o stanno ancora prendendo il caffè, quindi è ben difficile che la riunione abbia degli effetti positivi e la partecipazione desiderata. E quindi il martedì alle 15, per cui se avete deciso di non partecipare a una riunione, quello è il momento per darvi malati. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Paolo Corleoni in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, e scrivete a La Finestra sul Cortile @radio24.it. Buon weekend a tutti.